tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, un nuovo saluto dal Circolo Giordano Bruno di Milano. Iniziamo col nostro comunicato stampa, il nostro notiziario anticlericale. Comunicato stampa che raccoglie i dati dei religiosi cattolici che si sono suicidati nel 2019. Sono una decina, fra preti, frati e suore, che hanno posto termine alla loro vita alla faccia di tutte le dichiarazioni a favore della vita da parte della Chiesa Cattolica. L'elenco dei 10 preti e frati eccetera disgraziati lo potete trovare sul nostro sito giordanobrunomi.wordpress.com. Una terribile disgrazia è avvenuta a Santuario di Loreto nelle Marche. Invece di essere teatro di chissà quali miracoli, in quanto vi sarebbe collocata addirittura la casa natale di Gesù Cristo, trasportata dagli angeli per angelorum, invece è scaduta una terribile disgrazia. Studente di 16 anni travolto alla stazione di Loreto, a pochi passi dal santuario della Santa Casa. Crolli di chiese anche sta settimana. La chiesa dei Santi Alberto e Teresa, invece di essere teatro di chissà quale miracolo, è miseramente crollata a San Giuliano Milanese. Un'altra disgrazia ha colpito la chiesa, una chiesa di Porto Rico il 7 gennaio, per la chiesa di San Giuda, è crollata e distrutta dal terremoto. Passiamo poi ai misfatti clericali. Spagna, i soliti preti pedofili che tutti gli anni, tutti i mesi, tutti i giorni imperversano in tutte le parti del mondo. Un sacerdote arrestato a Valladolid in Spagna per aver inviato un video sessuale a un minore, 14 gennaio 2020. Poi sulle falsificazioni clericali, che sono tantissime, veramente la Chiesa è una gabbia di matti. Celibato dei preti, il giallo in Vaticano sulla firma di Ratzinger, non è autore di quel libro. Insomma, è uscito un libro scritto da Ratzinger, ma lui dice che non l'ha mai scritto, proprio siamo in una gabbia di matti. E 21 dicembre 2019, cosa è successo a Lamezia Termine? Corriere della Calabria, i soliti misfatti clericali. Prete rotomane calabrese sospeso perché girava un video erotico con lui in persona come protagonista. La realtà supera ogni immaginazione. Dal quotidiano La Prealpina di Varese del 10 gennaio 2020, un grande articolo ci informa che il gerarca fascista Scorza, ultimo segretario del Partito Nazionale Fascista, fu salvato dai gesuiti dell'Aloisianum di Gallarate, che lo ospitarono sotto falso nome e garantirono falsamente ai partigiani che lui era un certo dottor Maggi. Scandalo a Rovereto, frate ubriacone, notte brava di un frate francescano di Rovereto, ritrovato in stato confusionale per strada a luna di notte. Qui non è chiaro l'articolo se era ubriaco o se aveva ecceduto in attività erotiche notturne. La legge salica. La legge salica è una delle tante mostruosità del cattolicesimo, secondo cui in tutti gli stati cattolici monarchici a ereditare è il maggiore dei maschi, invece anche quando il maggiore dei figli è una donna non può ereditare niente. Infatti, cosa sappiamo dalla Repubblica del 9 gennaio, muore l'infanta Pilar, sorella maggiore di re Juan Carlos. Nonostante fosse la primogenita, il regno è andato al fratello minore. Parroco pedofilo. La riunione a casa di Don Pascal, ragazzini sedati e palpeggiati. Questo frate prete malefico stordiva i ragazzini dandogli delle aranciate con dentro sostanze soporifere e poi abusava di loro, una cosa proprio clericale al massimo. California, i soliti preti pedofili maledetti. Allora, cosa è successo? Secondo il Los Angeles Times, 8 gennaio 2020, una sordida vita segreta, sacerdote ora morto, accusato di aver violentato una bambina di 7 anni generando un altro figlio. Sul web potete trovare la foto di questa povera signora e con la sua foto da piccola, che ovviamente batte cassa alla diocesi per avere un rimborso, visto che il prete responsabile intanto è morto. Nell'Ohio, negli Stati Uniti, il prete Pornofino è arrestato 3 gennaio 2020 a Strongville, arrestato prete. Faceva pornografia con i bambini, insomma, i preti, sempre quelli e sempre saranno. Clerico nazismo dal Fatto Quotidiano del 6 gennaio 2020. Insomma, cos'è avvenuto a Villa Minozzo, Reggio Emilia nel 1946? Addirittura il gerarca fascista Eichmann era passato da questo paesotto in quanto aveva rapporti di amicizia con un sacerdote del paese di idee nazifasciste. Occhio ai preti che sono pieni di fascisti. Non a caso, se vedi un prete, spara, se vedi nero, spara visto, o è un prete o un fascista. E cosa è successo? Insomma, sto prete lo ospitava, sotto falso nome, ovviamente. Gennaio 2020, dal calendario anticlericale di Pierino Marazzani. Giovedì 16 gennaio 1467. Decreto governativo che obbliga gli ebrei siciliani ad ascoltare le prediche obbligatorie per convertirli. 17 gennaio 2018. Abusi nel liceo dei gesuiti di Roma, in manette il vicepreside. 18 gennaio 2017. Denuncia sciocca a Padova. Don Andrea Contin favoreggiava la prostituzione e sexy shopping canonica. 19 gennaio 1761. Censurato dalla Congregazione Cardinalizia dell'Indice un libro francese sul comunismo utopico. E veniamo allo scandalo delle suore di Marradi, Firenze. Suore sotto sfratto, barricate nel convento. Quotidiano nazionale del 12 gennaio 2020. Cosa è successo? Che queste suore gli hanno tagliato il telefono, chi gliel'ha tagliato? I preti, per mandarle via, in quanto secondo il diritto canonico sotto le quattro suore non posso più stare. E quindi loro si sono ribellati. Viva le suore ribelli! Ricordiamoci che la libreria Feltrinelli Duomo di Milano è una delle poche in tutta Italia dove c'è proprio un bancale di libri anticlericali. Integralismi. Dal manifesto del 10 gennaio 2020, un giudice di Rio de Janeiro ha ordinato la rimozione di Prima Tentazione di Cristo, satira religiosa censurata in Brasile, l'oscurantismo contro l'immaginario, una lunga storia. E qui c'è proprio una paginata di censure clericali. Poi ritorniamo al film The New Pope, Tre papi e una donna, tra scandali e vizi segreti. The New Pope. Ogni prete viene ormai visto giustamente con sospetto a causa dei loro vizi, che ormai la libera stampa e i mass media mettono alla berlina. Renudo era una rivista degli anni 70, adesso c'è il Papa seminudo. Edgar Law in mutande, cioè Jude Law in mutande. E anche questi film, chiaramente dissacranti, a noi anticlericali vanno benissimo. Racconto il Papa segreto, ma su sette il regista è Dio. Paolo Sorrentino, The New Pope. I papi sono tre, ma uno non durerà a lungo. Voglio mostrare i preti per quello che sono, comprese le loro aberrazioni. Qui da Fatto Quotidiano del 6 gennaio. Poi veniamo agli attacchi contro i presepi natalizi. Il notiziario del 3 gennaio, bisogni in chiesa e posto rimosso, Natale di polemiche a Ceriano Laghetto. Insomma, un anticlericale spontaneo è entrato in chiesa e ha fatto i propri bisogni. Insulti e bestemmie durante la messa del pomeriggio, scatta la multa di 102 euro, l'arresto per resistenza. Insomma, un anticlericale ha fatto irruzione nella parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Viale Corsica a Milano e ha fatto il diavolo a quattro. Accusano Milanino, assalto al presepe, rubato Gesù bambino, dal notiziario del 3 gennaio 2020. Bene, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Saluti a tutti.